D. Ascolta e controlla. Nel 1922, Francesco Andreani, Leone Ascoli, Annibale Spagnoli e Francesco Buitoni erano i soci fondatori che nel 1907 avevano dato vita alla storica fabbrica della Perugina. La leggenda vuole che Luisa Spagnoli, moglie di Annibale, aiutando il marito in fabbrica, aveva notato che durante la lavorazione dei cioccolatini venivano buttati via molti chili di briciole di nocciole. Da qui nacque l'idea di impastare i frammenti di nocciola con il cioccolato. Ciò che venne fuori fu uno strano cioccolatino tempestato di frammenti di nocciole dalla forma irregolare, quasi a ricordare l'immagine di un pugno chiuso, dove la nocca più sporgente era rappresentata da una nocciola intera. Fu proprio questa forma particolare a conferire all'odierno bacio il suo primo nome, cazzotto. Il cioccolatino era buonissimo e riscosse immediatamente un successo clamoroso, dovuto sia al sapore molto gradevole che alla particolarissima forma. Tuttavia, sebbene il nome fosse certamente originale, Giovanni Buitoni non era convinto che fosse una buona idea proporre dei cioccolatini da regalare con il nome di cazzotti. Decise così di ribattezzare la sua creazione con un nome più dolce e certamente più consono alle occasioni del suo utilizzo. Nacque il Bacio Perugina, che portò con sé tutta una serie di slogan legati a gesti affettuosi e a momenti d'amore. Il Bacio Perugina diventò il simbolo per eccellenza del pensiero affettuoso. L'immagine del bacio venne affidata a Federico Seneca, direttore artistico della Perugina negli anni 20. Attraverso la sua rielaborazione del quadro di Francesco Hayez, Il Bacio, creò la scatola blu con l'immagine dei due innamorati. E fu sempre sua l'idea di inserire i cartigli contenenti le frasi d'amore che ancora oggi caratterizzano lo storico cioccolatino.